Philip prese la mano di Maggie e lei non vide alcuna ragione di ritirarla. La tranquillità di lui la confermava vieppiù nella certezza di avergli cagionato una pena grande e voleva mostrargli come involontariamente gliel'avesse inflitta. Camminavano accanto, la mano nella mano, in silenzio. Sediamoci nella valletta, disse Philip, dove ci siamo fermati l'altra volta. Vedete come le rose di macchia si sono sparpagliate sul terreno e l'hanno cosparso dei loro petali opalini. Si sedettero al pedale del frassino inclinato. Ho cominciato il vostro ritratto tra i pini di Scozia, Maggie, disse Philip. Perciò dovete lasciarmi studiare un poco il vostro viso mentre siete qui, se non vi devo vedere mai più. Voltate la testa da questa parte, vi prego. Questo disse con voce supplichevole, e sarebbe stato molto difficile per Maggie di rifiutare. Il viso pieno e luminoso, con la splendida corona di trecce nere, si chinò come quello di una divinità compiaciuta di essere adorata, verso il pallido, minuto viso levato a guardarla. Dovrò dunque posare per il mio secondo ritratto, ella disse sorridendo. Sarà più grande dell'altro? Oh sì, molto più grande. È una pittura a olio. Voi vi apparirete come una slanciata madriade, bruna e forte e nobile, appena sbocciata da uno dei pini, allorché i rami disegnano sull'erba la loro ombra serale. Mi pare che adesso voi vi occupiate più di pittura che di ogni altra cosa, non è vero, Philip? Forse, sì, disse Philip con alquanta tristezza, ma attendo a troppe cose. Getto ogni sorta di sementi e da nessuna raccolgo gran messe. Sono perseguitato da una versatilità per tutte le manifestazioni senza vero talento per alcuna. Mi occupo di pittura, di musica, mi occupo di letteratura classica, di letteratura medievale e di letteratura moderna. Batto le ali in tutti i campi e su nessuno m'alzo mai a volo. Oh, ma è certo una fortuna quella di avere dei gusti così vari, di godere tante cose belle quando queste sono a portata di mano, disse Maggie assorta. Mi è sempre parsa una forma di intelligente stupidità quella di avere una sola specie di talento, quasi come i piccioni viaggiatori. Avere dei gusti così vari sarebbe forse una fortuna se io fossi come gli altri uomini, disse Philip con amarezza. Potrei, come gli altri, conquistarmi una certa potenza e un grado abbastanza elevato con la semplice mediocrità, o perlomeno conseguire quelle modeste soddisfazioni che mettono in grado di fare a meno delle grandi. Forse, in tal caso, troverei piacevole la società di St. Oaks, ma nulla potrebbe farmi apparire la vita degna di essere conquistata a prezzo di pena, se non una facoltà che mi innalzasse sopra lo stagnante livello di un'esistenza provinciale. Sì, un'altra cosa ci sarebbe, una passione varrebbe quanto una facoltà geniale. Maggie non udì le ultime parole, stava lottando contro la consapevolezza che le parole di Philip tornavano, come sempre, a sommuovere il suo scontento. Capisco ciò che volete dire, rispose. Quantunque io sappia tante meno cose di voi, ho pensato anch'io che non avrei potuto sopportare la vita se fosse durata sempre la stessa, tutti i giorni, e mi fosse toccato sempre di fare delle cose di nessuna importanza, senza mai conoscere nulla di più grande. Ma, caro Philip, forse noi non siamo che dei bimbi di cui un essere più saggio si prende cura? E allora non è giusto di rassegnarci completamente, quali ci siano le cose che ci vengono negate. In questo io ho trovato una gran pace durante gli ultimi 3 anni. Ho trovato perfino della gioia a signoreggiare la mia volontà. Sì, Maggie, disse Philip con foga, e voi vi rinchiudete in un gretto illusorio fanatismo che è soltanto un mezzo per sfuggire alla sofferenza, soffocando nel torpore le più alte facoltà del vostro carattere. La gioia e la pace non sono rassegnazione. Rassegnazione è l'accettare volontariamente una pena che non si allevia, che non si spera possa essere alleviata. L'insensibilità non è rassegnazione, ed è insensibilità il rimanere nell'ignoranza, il bloccare tutte le strade per cui la vita dei vostri simili può giungere a vostra conoscenza. Io non sono rassegnato, non sono neppure certo che questa vita sia lunga abbastanza per apprenderci questa virtù, e voi non siete rassegnata, voi tentate semplicemente di ridurvi all'insensibilità. Le labbra di Maggie tremavano. Ella sentiva che c'era una certa verità in ciò che Philip diceva, e tuttavia una più profonda coscienza la avvertiva che ad applicarle immediatamente alla sua condotta quelle parole non erano che inganno. Questa duplice impressione corrispondeva al duplice impulso di colui che le parlava. Philip credeva seriamente in ciò che diceva, ma lo diceva con veemenza perché costituiva un argomento contro la decisione che si opponeva ai suoi desideri. Se non che il viso di Maggie, fatto più infantile dalle lacrime che ne trapelavano, lo toccò di un sentimento più tenero e meno egoista. Le prese la mano e disse con dolcezza: «Non occupiamoci di simili cose in questa breve mezz'ora, Maggie. Pensiamo soltanto a stare insieme. Noi saremo amici, a dispetto di qualunque separazione. Penseremo sempre l'uno all'altra e io sarò lieto di vivere finché voi sarete viva, perché mi parrà che possa sempre venire un giorno in cui mi sarà dato, in cui voi mi concederete, di assistervi in qualche modo». «Che caro, che buon fratello sareste stato, Philip», disse Maggie, sorridendo di tra il velo delle lacrime. «Credo che mi avreste dato molta importanza e sareste stato così contento che io vi volessi bene, che anch'io ne sarei stata felice. E il vostro affetto sarebbe stato tale che mi avreste sempre sopportata e mi avreste perdonato qualunque cosa. È questo che io ho sempre desiderato da Tom. Il poco non mi ha mai accontentata, di qualunque cosa si tratti. Ed è perciò che preferisco di rinunciare del tutto alla felicità di questo mondo. Non ho mai sentito una musica che mi saziasse. Desideravo più strumenti che suonassero insieme, desideravo voci più piene, più profonde. Cantate ancora, Philip», soggiunse bruscamente, come avesse dimenticato ciò che avevano detto poco prima. «Sì», disse questi, «quasi tutti i giorni, ma la mia voce non è che mediocre, come tutto ciò che è in me. Oh, cantatemi qualche cosa, un'aria soltanto. Ho tempo di ascoltarla prima di andar via, qualcuna di quelle che usavate cantare all'orto nel pomeriggio del sabato, quando il salotto era tutto per noi e io mi mettevo il grembiale sulla testa per ascoltare». «Ricordo», disse Philip, e Maggie si nascose il viso fra le mani mentre egli cantava sottovoce: «Amore le gioca negli occhi». E poi le disse: «Era questa, non è vero?» «Oh no! Non voglio più restare qui», disse Maggie alzandosi. «Tutto ciò non farà che tormentarmi. Andiamo, Philip, devo tornare a casa». E si allontanò, sicché egli fu costretto ad alzarsi e a seguirla. «Maggie», le disse in tono di rimprovero, «non ostinatevi in questa privazione caparbia e insensata. Vedervi reprimere e strozzare così il vostro istinto mi mette alla disperazione. Eravate talmente piena di vita da bimba che io pensavo che sareste divenuta una donna brillante, tutta spirito e vivezza di immaginazione. Il vostro viso ne risplende ancora quando non lo ricoprite con quel velo di torpida indifferenza». «Perché mi parlate con tanta amarezza, Philip?» disse Maggie. «Perché prevedo che tutto ciò non andrà a finir bene. Voi non potrete reggere per sempre a torturarvi così». «La forza mi sarà data», disse Maggie, tutta tremante. «No, non è vero, Maggie. A nessuno è data la forza per fare ciò che è contro natura. Non è che codardia il cercare la salvezza in una negazione. Nessun carattere diventa forte in questa maniera. Un giorno voi sarete buttata nel mondo. E allora tutte quelle ragionevoli soddisfazioni dell'istinto che ora vi rifiutate vi assaliranno come un appetito selvaggio». Maggie trasalì e si fermò, guardando Philip con viso allarmato. «Philip, come osate turbarmi così? Voi siete un tentatore». «No, che non lo sono. Ma l'amore fa chiaroveggenti, Maggie, e la chiaroveggenza spesso ci dà dei presagi. Ascoltatemi. Lasciate che io vi porti dei libri, lasciate che io vi veda qualche volta, che io sia il vostro fratello, il vostro maestro, come dicevate all'Orton. Faretemi normale a vedermi che a consumare questo lento suicidio». Maggie si sentiva incapace di parlare. Scosse il capo e seguitò a camminare in silenzio finché giunsero all'orlo dei pini di Scozia ed ella tese la mano in segno di addio. «Dunque, mi bandirete per sempre da questo luogo, Maggie?» Certamente io potrò venire qualche volta a passeggiarvi, se per caso vi incontrerò, allora non ci sarà nulla di clandestino. Proprio nel momento in cui pare che la nostra risoluzione stia per diventare irrevocabile e le fatali porte di ferro siano sul punto di richiudersi su di noi, ecco che la nostra forza è messa alla prova. Allora, dopo ore di ragionamenti chiari e di convincimenti fermi, ci attacchiamo a un sofisma qualunque che frustrerà le nostre lunghe lotte e ci porterà quella disfatta che amiamo più della vittoria. Maggie si sentì balzare il cuore a questo sotterfugio di Philip e attraverso il suo viso passò quel brivido quasi impercettibile che accompagna qualunque sollievo. Egli lo vide e si separarono in silenzio. Philip aveva un senso troppo completo della situazione per non essere preso a tratti dalla paura d'essere intervenuto con soverchia presunzione nei dibattiti della coscienza di Maggie e forse per fini egoistici. Ma no, egli si persuadeva che i suoi fini non erano egoistici. Aveva poche speranze che Maggie potesse mai corrispondere a quel vivo sentimento che gli nutriva per lei, ma per il suo stesso avvenire. Quando sarebbero scomparsi quei meschini ostacoli opposti dalla famiglia alla sua libertà, era meglio che il presente non fosse del tutto sacrificato e che ella serbasse qualche possibilità di farsi una cultura, mantenesse qualche rapporto con uno spirito più elevato di quelli con cui era condannata ora a vivere. Se soltanto guardiamo abbastanza lontano le conseguenze delle nostre azioni, possiamo sempre trovare nella combinazione dei risultati, qualche elemento con cui quelle azioni riescano a giustificarsi, sia adottando il punto di vista di una provvidenza che predispone tali risultati, sia quello di un filosofo che li spiega. Sarà sempre possibile di ottenere una perfetta connivenza con la scelta di quel partito che in un dato momento ci è più piacevole. Ed era così che Philip giustificava i propri sforzi sottili per superare la giusta opposizione di Maggie contro un segreto che avrebbe inquinato il suo spirito e poteva cagionare nuovi dolori a coloro che avevano su di lei i primi e più naturali diritti. Ma c'era in lui un eccesso di passione che lo rendeva quasi libero da ogni bisogno di giustificarsi. Il suo desiderio di vedere Maggie e diventare un elemento della vita di lei aveva qualcosa di quel selvaggio istinto di afferrarsi ad una gioia offerta che scaturisce da una vita in cui la costituzione intellettuale e fisica ha dato al dolore il predominio. Egli non aveva tutta la sua parte nel bene comune degli uomini, non poteva neppure confondersi con la schiera degli insignificanti, anzi, gli toccava di essere messo in vista dalla pietà che destava ed escluso da tutto ciò che per gli altri è naturale. Perfino per Maggie egli rappresentava un'eccezione. Evidentemente il pensiero che gli potesse essere il suo innamorato non le era mai venuto in testa. Non pensate troppo male di Philip. Le persone brutte e deformi hanno un grande bisogno di virtù eccezionali, senza di cui sarebbero probabilmente molto infelici. Ma la teoria che le virtù eccezionali scaturiscano come diretta conseguenza dalle inferiorità fisiche, così come gli animali dei climi rigidi hanno il pelame folto, è forse un poco esagerata. Si insiste molto sulle tentazioni della bellezza, ma io mi immagino che esse stiano a quelle della bruttezza, come le tentazioni dell'incontinenza in una festa, dove le più varie delizie si offrono tanto agli occhi e agli orecchi quanto al palato, stanno a quelle che assalgono la fame disperata. Forse che la torre della fame non costituisce il tipo della più terribile prova di tutto ciò che c'è in noi di umano? Philip non era mai stato consolato da quell'amore materno che fluisce su di noi più abbondante quanto più grande è il bisogno e ci fascia tanto più teneramente quanto minori sono le nostre probabilità di riuscire vincitori nel gioco della vita. E il senso che gli aveva dell'affetto e dell'indulgenza paterna era offuscato dalla viva percezione dei torti del babbo. Tenuto a distanza da ogni specie di vita pratica, come era stato, ed una sensibilità di temperamento mezzo femminea, egli sentiva un po' dell'intransigente disgusto delle donne contro il guadagno e la deliberata ricerca dei godimenti sensuali. E l'unico forte legame della sua vita, l'amore filiale, era per lui come un arto sofferente. Forse c'è inevitabilmente qualche cosa di morbido in ogni essere umano che comunque sia sfavorevolmente escluso dalle condizioni ordinarie, fino a tanto, almeno, che le forze sane abbiano avuto tempo di trionfare, e di rado a 22 anni, e se hanno avuto questo tempo. Tali forze esistevano ad alto potenziale, ma anche il sole appare scialbo tra le nebbie del mattino. 4. Un'altra scena d'amore. Sul principio dell'aprile seguente, a circa un anno da quell'ambigua separazione a cui avete assistito, avreste potuto, volendo, rivedere Maggie che entrava nei fondi rossi di tra il ciuffo dei pini di Scozia. Ma era l'alto pomeriggio, non la sera, e la punta d'asprezza dell'aria primaverile la costringeva a fasciarsi stretta nel suo grande scialle e a camminare alquanto frettolosa, ancorché si guardasse d'attorno, siccome soleva, per godere la vista di quegli alberi amati. C'era nei suoi occhi uno sguardo più vivo e curioso che nel passato giugno, e un sorriso più vivo e curioso aleggiava sulle sue labbra, come un gioioso discorso in attesa dell'ascoltatore ben disposto, e l'ascoltatore non tardò ad apparire. «Prendetevi indietro la vostra Corinna», disse Maggie, estraendo un libro di sotto lo scialle. Avevate ragione di dirmi che non mi avrebbe fatto del bene, ma avevate torto a pensare che io avrei desiderato di rassomigliarle. Davvero, dunque, che non vi piacerebbe di essere una decima musa, Maggie? Disse Philip, alzando gli occhi verso il volto di lei, come si guarda ad un primo squarciarsi delle nuvole che promette il ritorno del cielo sereno. Niente affatto, disse Maggie, ridendo. Le muse erano delle dee scomode, credo, sempre obbligate a portare con sé dei papiri e degli strumenti musicali. Se io portassi un'arpa con questo fresco, voi capite che dovrei avere una coperta di lanetta verde da metterci sopra e sarei sicura di dimenticarla in qualche posto per distrazione. Ah, allora siete d'accordo con me nel provare poca simpatia per Corinna? Non ho terminato il libro, disse Maggie. Appena giunta quella giovane dama bionda che legge nel parco, l'ho richiuso e ho deciso di non leggere avanti. Prevedevo che quella fanciulla dal viso chiaro avrebbe sempre rapito a Corinna tutti i suoi amori e l'avrebbe resa infelice. Sono risoluta a non leggere più libri dove le donne bionde si portano via tutta la felicità. Comincerei ad avere dei pregiudizi contro di loro. Se adesso poteste darmi qualche romanzo in cui trionfi una bruna, si ristabilirebbe l'equilibrio. Ho bisogno di vendicare Rebecca e Flora McIvor e Minna e tutte le altre brune infelici. Dal momento che siete il mio maestro, voi dovete premunire il mio spirito contro i pregiudizi. State sempre predicando contro i pregiudizi. Ebbene, sarete forse voi a vendicare le brune nella vostra persona e a portar via tutti gli amori a vostra cugina Lucy. Ormai ella avrà sicuramente ai suoi piedi qualche bel giovinotto di St. Oaks. Ma voi non avrete che splendere davanti a lui, e la vostra cuginetta bionda sarà completamente eclissata dal vostro raggio. Oh, Philip, non è bello da parte vostra di applicare le mie corbellerie ad un caso reale, disse Maggie con aria irritata, quasi che io con i miei abiti frusti e priva come sono di tutte le qualità mondane, potessi rivaleggiare con la cara piccola Lucy, che sa e fa ogni sorta di cose seducenti. Ed è 10 volte più graziosa di me, quando anche io fossi così odiosa e bassa da voler essere la sua rivale. Senza contare che io non vado mai da zia Dian quando c'è gente. E se la cara Liu si viene a vedermi e vuole che io vada qualche volta a trovarla è solo perché è buona e mi vuol bene. Maggie, disse Philip sorpreso, non è da voi di prendere alla lettera gli scherzi. Dovete essere stata stamani in St. Oaks ed esservi buscata una piccola infezione di omortetro. Bene, disse Maggie sorridendo. Se volete parlare per Celia, era una povera Celia. Ma io pensavo che fosse un rimprovero in regola. Credevo voleste rammentarmi che sono vana e che desidero troppo di essere ammirata da tutti. Ma non è per questo che io tengo le parti delle brune, non è perché io sia bruna. È perché gli infelici mi destano sempre un interesse maggiore. Se la fanciulla bionda fosse abbandonata, vorrei più bene a lei. Nei romanzi prendo sempre le parti degli innamorati respinti. E allora voi non avreste mai cuore di respingerne uno, ne è vero, Maggie? Disse Philip arrossendo un poco. Non lo so, disse Maggie esitante, e poi con un sorriso luminoso. Beh, credo forse che lo farei con uno che fosse troppo presuntuoso, ma se poi si umiliasse molto, mi ammansirei. Mi sono domandato spesso, Maggie, disse Philip con un certo sforzo, se effettivamente voi non sareste fatta piuttosto per amare un uomo per cui le altre donne non saprebbero sentire amore. Questo dipende dalla ragione per cui quelle non gli vogliono bene, disse Maggie ridendo. Potrebbe darsi che gli fosse molto antipatico. Potrebbe essere uno che mi guardasse attraverso un monocolo incastrato nell'occhio, facendo una smorfia orribile, come il giovane Torri. Non credo che le altre donne ne siano entusiaste, ma io non sono riuscita mai a sentire alcuna pietà per il giovane Torri. Non ho mai avuto pietà per i presuntuosi, perché credo che si portino già con sé la propria contentezza. Ma supponete, Maggie, supponete che ci sia un uomo non presuntuoso, che senta di non avere nulla di cui andar vano, che fin dall'infanzia sia stato destinato ad una particolare specie di sofferenza e che per quello voi foste l'astro luminoso della vita, uno che vi amasse, che vi adorasse, al punto da sentire come bastevole felicità che voi gli permetteste di vedervi in qualche raro momento. Philip si fermò con subita apprensione per tema che quel suo confessarsi potesse appunto troncare proprio quella felicità, un'apprensione come quella che per tanti mesi aveva reso muto il suo amore. Una impetuosa resipiscenza lo avvertì che era stato pazzo a dir tutte quelle cose. Il contegno di Maggie quel mattino era stato disinvolto e indifferente, come sempre, ma ora ella non appariva indifferente. Colpita dall'insolita emozione della voce di Philip, si era vivamente voltato a guardarlo e mentre gli seguitava a parlare, un grande cambiamento si produceva sul suo viso. Un rossore e una leggera contrazione dei tratti, come vediamo nella gente che oda una notizia da cui sarà costretta a riformare la propria concezione del passato. In completo silenzio si diresse verso il tronco di un albero abbattuto e vi si sedette, come non avesse più alcuna forza nei muscoli. Era tutta tremante. Maggie, disse Philip, sempre più allarmandosi come più durava quel silenzio, sono stato un pazzo a farvi questi discorsi. Dimenticate ciò che vi ho detto. Sarò contento se le cose potranno rimanere come erano. La distretta con cui egli parlava costrinse Maggie a dire qualche cosa. Sono così sorpresa, Philip. Non ci avevo mai pensato. E lo sforzo di dire queste parole la fece rompere in lacrime. Oh, vi sono divenuto odioso, Maggie, disse Philip con foga. Pensate che io sia un pazzo presuntuoso? Oh, Philip, disse Maggie, come potete supporre che io abbia simili sentimenti? Quasi che io non fossi riconoscente di qualunque amore, ma non avevo mai pensato che voi foste innamorato di me. Poter avere qualcuno che mi amasse mi pareva una cosa così lontana. Come un sogno, proprio come una di quelle storie che si inventano. E allora potete tollerare l'idea che io sia innamorato di voi, Maggie, disse Philip, sedendosi accanto a lei. E prendendole la mano nello slancio di una subita speranza, mi amate? Maggie si fece molto pallida. A questa domanda diretta non le pareva facile di dare una risposta, ma i suoi occhi incontrarono quelli di Philip, che erano in quel momento ansiosi e belli nella loro richiesta d'amore. Parlò con esitazione e tuttavia con dolce, semplice, infantile tenerezza. Difficilmente, credo, potrei sentire per qualcuno un più forte amore. Non c'è nulla in voi che io non ami. Tacque un istante, poi soggiunse. Ma sarà meglio per noi di non dirne più nulla. Non credete, caro Philip. Voi sapete che noi non potremmo neppure essere amici se la nostra amicizia venisse scoperta. Non ho mai pensato d'aver ragione a consentire di vedervi, quantunque ciò mi sia stato tanto prezioso per motivi diversi, e ora mi prende di nuovo un terribile spavento che possa recare del male. Ma non è nato nessun male, Maggie, E se voi foste stata dominata prima da questo timore, avreste soltanto trascorso un'altra annata tetra ed opprimente invece di ritrovare la vostra personalità. Maggie scosse il capo. È stato molto dolce, lo so, tutto questo parlare tra noi, e i libri, e il sentimento con cui attendevo queste mie passeggiate, durante le quali vi avrei narrato tutti i pensieri che mi erano passati per la mente mentre ero lontana da voi. Ma tutto ciò mi ha resa inquieta, mi ha fatto molto pensare alle cose mondane e sono stata ripresa dalle mie immaginazioni impazienti. Divento intollerante della mia casa e poi subito mi si spezza il cuore di aver potuto provare dell'insofferenza verso mio padre e mia madre. Credo che quello che voi chiamate torpore fosse meglio, meglio per me, perché allora anche i miei desideri egoistici erano in torpore. Philip era tornato ad alzarsi e camminava avanti e indietro con impazienza. No, Maggie, no, voi avete delle idee sbagliate sul dominio di se stessi. Come vi ho detto tante volte, ciò che voi chiamate dominio di se stessi, quel rendervi cieca e sorda a tutto, fuorché ad una sola specie di impressioni, non è per un temperamento come il vostro, se non il coltivare una monomania. Aveva parlato con irritazione, ma poi era tornato a sedersi accanto a lei e le aveva ripreso la mano. Adesso non pensate al passato, Maggie, pensate al nostro amore. Se potete realmente attaccarvi a me con tutto il vostro cuore, ogni ostacolo sarà superato col tempo. Non si tratta che di aspettare. Io posso vivere di speranza. Guardatemi, Maggie. Ripetetemi che vi è possibile di amarmi. Non guardate verso quell'albero forcuto e di cattivo augurio. Ella volse verso di lui il suo grande sguardo nero, con un sorriso triste. Via, Maggie, ditemi una sola parola gentile, se no eravate più buona con me all'Orton. Mi domandavate se sarei stato contento che mi baciaste, ve ne ricordate? E prometteste di baciarmi quando saremmo tornati a incontrarci. Quella promessa non l'avete mai mantenuta. Il ricordo di quel tempo infantile giunse a Maggie come un dolce sollievo. Le rese meno strano il momento presente. E baciò Philip, quasi con la stessa semplicità di quando era una bimba di 12 anni. Gli occhi di lui si accesero di delizia, ma le parole seguenti furono di sconforto. Oh, non mi sembrate abbastanza felice, Maggie. Voi state sforzandovi per compassione a dire che mi amate. No, Philip, disse Maggie scuotendo il capo a suo vecchio modo infantile. Vi dico la verità. Tutto questo è per me così nuovo e strano, ma non credo che potrei amare nessuno più di voi. Vorrei vivere sempre con voi, rendervi felice. Sono sempre stata felice quando mi sono trovata con voi. C'è una sola cosa che non potrò fare per amor vostro, ed è contristare mio padre. Questo non me lo dovrete chiedere, mai. No, Maggie. Non chiederò nulla, sopporterò qualunque cosa, aspetterò magari un anno ancora, non fosse che per un vostro bacio, purché voi mi diate il primo posto nel vostro cuore. No, disse Maggie sorridendo, non vi farò aspettare tanto così. Ma poi, riprendendo un aspetto serio, soggiunse, mentre s'alzava da sedere: Ma che ne direbbe vostro padre, Philip? Oh, è impossibile che noi possiamo essere qualche cosa più che amici, fratello e sorella in segreto come siamo stati. Rinunciamo a qualunque altro pensiero. No, Maggie, io non posso rinunciare a voi, a meno che voi non manchiate, a meno che voi vi interessiate a me soltanto come ad un fratello. Parlatemi, sinceramente. Sinceramente, Philip, quale felicità ho mai avuto così grande come quella di stare con voi dal tempo che ero una bambina, quando Tom era buono con me. E la vostra intelligenza è una specie di universo per me. Voi siete in grado di spiegarmi tutto ciò che io desidero di sapere. Credo che non mi annoierò mai di stare con voi. Passeggiavano, con la mano nella mano, guardandosi l'un l'altra. Maggie, a dire il vero, affrettava il passo perché sentiva che era già tempo di andarsene, ma il senso che la loro separazione era imminente la rendeva più inquieta per tema di avere, a sua insaputa, lasciato qualche penosa impressione nello spirito di Philip. Era uno di quei momenti pericolosi, in cui la parola è al tempo stesso sincera e ingannevole, in cui il sentimento, sollevandosi al di sopra del livello medio, lascia una traccia come una marea che non raggiungerà mai più un punto così alto. Si fermarono tra i pini di Scozia per separarsi. Dunque, la mia vita potrà colmarsi di speranza, Maggie? E ad onta di tutto, io sarò più felice che gli altri uomini? Noi ci apparteniamo l'uno all'altra per sempre, vicini o lontani? Sì, Philip, vorrei che non ci separassimo mai. Vorrei rendere la vostra vita molto felice. Oh, io sono in attesa di qualcosa di più. Non so se verrà. Maggie sorrise tra un brillare di lacrime e poi chinò la sua testa alta per baciare quel pallido volto che era pieno di un supplice timido amore quasi femmineo. Ella ebbe allora un momento di vera felicità, un momento in cui credette che se c'era sacrificio in quell'amore, esso era tanto più ricco ed appagante. Si voltò e corse verso casa, sentendo che durante l'ora trascorsa, da quando aveva fatto la medesima strada, una nuova epoca s'era iniziata per lei. La trama dei sogni vaghi doveva ora diventare più e più fitta, e tutti i fili dei pensieri e degli affetti inseriti a poco nel tessuto della sua attuale vita quotidiana. 5. L'albero forcuto. Di rado i segreti sono traditi o scoperti nei modi che il nostro timore aveva immaginati. Il timore è quasi sempre dominato dall'incubo di terribili scene drammatiche che ritorna malgrado le più ragionevoli probabilità in contrario. E durante tutto l'anno in cui Maggie si era tenuta in cuore il peso di un segreto, la possibilità di essere scoperta le si era continuamente presentata, sotto l'aspetto di un subitaneo incontro col padre o con Tom, mentre stava passeggiando con Philip per i fondi rossi. Sapeva bene che un tale evento non era dei più probabili, e tuttavia era questa la scena che più completamente simboleggiava la sua interna apprensione. Quei leggeri indizi indiretti che dipendono da coincidenze apparentemente banali e da imprevedibili stati d'animo sono il meccanismo prediletto del fato, ma non la stoffa su cui la nostra immaginazione è portata a lavorare. Certamente una delle persone di cui meno si inquietava Maggie nelle sue apprensioni era la zia Pallet. E infatti sarebbe stato del tutto fantastico che si fissasse su di lei, piuttosto che su zia Glegg, dal momento che questa non viveva in St. Oaks e non era così pronta né di occhi né di temperamento. E non di meno, la via della fatalità, il tramite della folgore, non fu altro che zia Pallet. Non viveva in St. Oaks, ma la strada dei pini di Garum passava presso i fondi rossi, dall'estremità opposta a quella per cui vi entrava Maggie. Il giorno dopo l'ultimo incontro di Maggie con Philip, essendo una domenica, nella quale Mr. Pallet doveva trovarsi alla chiesa di St. Oaks col nastro da lutto sul cappello e la sciarpa delle cerimonie funebri, Mrs. Pallet colse l'occasione per far colazione con la sorella Glegg e prendere il tè con la povera sorella Tulliver. Il pomeriggio della domenica era l'unico della settimana che Tom passasse in casa, e quel giorno le disposizioni più animate che erano apparse in lui negli ultimi tempi si erano date libero corso in una conversazione insolitamente allegra e aperta col babbo, nonché nell'invito «Vieni, Maggie, vieni anche tu», quando egli uscì con la madre in giardino per osservare i progressi dei ciliegi. Egli era già contento di Maggie da quando si mostrava meno bizzarra ed ascetica, stava perfino diventando un po' fiero di lei. Parecchie persone avevano notato, in presenza di lui, che sua sorella era una molto bella figliuola. Quel giorno c'era sul viso di lei una luce speciale, dovuta in realtà ad un segreto fiotto di agitazione, fatto di dubbio e di pena, non meno che di piacere, ma che poteva passare per un segno di felicità. «Hai un bellissimo aspetto, cara», le disse zia Pallet, scuotendo tristemente il capo, mentre sedevano intorno al tavolo del tè. «Non avrei mai creduto che tua figlia potesse avere una così bella cera, Bessie. Ma devi metterti in rosa, cara. Questa veste turchina che ti ha data zia Glegg ti fa gialla come un limone. Jane non ha mai avuto gusto. Perché non porti la veste che ti ho regalata io?» «Oh, è così bella ed elegante, zia. Credo che per me sia troppo vistosa, in confronto almeno con le altre cose con cui debbo assortire. Certo che sarebbe una sconvenienza se non si sapesse bene che tu hai dei parenti in condizioni da regalarti delle cose simili quando a loro non servono più. Va da sé che io devo dare ogni tanto delle vesti a mia nipote, di quelle che io compro tutti gli anni e non consumo mai completamente, perché a Lucy, già, non c'è da regalarle niente, lei ha tutto e di prima scelta. Sorella Diane può ben tenere la testa alta, quantunque abbia una faccia gialla da far paura, poveretta. Temo che quella malattia di fegato finisca col portarla via. Questo è quel che ha detto il nuovo vicario, il dottor Ken, nel discorso funebre di oggi. Ah, è un magnifico predicatore, non c'è che dire. Ne è vero, Sophie? Disse Mrs. Stalliver. Ebbene, in questo santo giorno Lucy aveva un colletto, seguitò Mrs. Pallet con gli occhi fissi in attitudine meditabonda, che io non posso dire se ne ho uno altrettanto bello. Bisogna anzi che metta fuori il mio migliore per fare il paio con quello. Dicono che Miss Lucy sia chiamata la campana di St. Oaks. È un curioso nome, osservò Mr. Pallet, che soccombeva a volte sotto i misteri dell'etimologia come sotto un peso schiacciante. Bah, disse Mr. Tulliver, geloso per Maggie, è una cosuccia di ben poca apparenza. Ma le belle penne sono quelle che fanno i begli uccelli. Io non capisco cosa ci sia tanto da ammirare in queste donne minuscole. Accanto agli uomini fanno un brutto vedere, sproporzionato. Quando ho scelto mia moglie l'ho presa di misura giusta, né troppo piccola né troppo grande. La povera moglie, con la sua bellezza sgualcita, sorrise, compiacente. Ma non tutti gli uomini sono alti, disse zio Palle tonale. Un giovanotto può essere di buona presenza anche se non ha 6 piedi di statura, come il nostro padron Tom. Ah, è un magro discorso quello della statura piccola o grande. Bisogna considerarsi fortunati quando si è diritti, disse zia Pallet. C'è quel disgraziato figlio dell'avvocato Wakem. Ah, l'ho veduto oggi in chiesa, buon Dio. Pensare alla ricchezza che dovrà toccargli. E dicono che è molto strambo e solitario e gli piace poco la compagnia. Non mi stupirei se perdesse la ragione, perché tutte le volte che passiamo per la strada lo vediamo sgusciar fuori dagli alberi e dai roveti dei fondi rossi. Quest'ampia testimonianza, in cui Mrs. Pallet riassumeva il fatto d'aver veduto 2 volte Philip nel luogo indicato, produsse su Maggie un effetto tanto più forte, in quanto Tom le sedeva di fronte ed ella era vivamente ansiosa di apparirgli indifferente. Al nome di Philip aveva arrossito. E il rossore cresceva di momento in momento per la consapevolezza che ella ne aveva, finché all'udir nominare i fondi rossi provò la sensazione che tutto il suo segreto fosse tradito e non osò neppure alzare il cucchiaino da tè per tema di mostrare come tremava. Se ne stava con le mani strette sotto la tavola senza osare di guardarsi d'attorno. Fortunatamente suo padre sedeva dalla stessa parte, oltre zio Pallet, e non poteva vederla in faccia senza chinarsi in avanti. Il primo sollievo le venne dalla voce della mamma che cambiava discorso, perché Mrs. Tulliver si metteva sempre in agitazione allorché il nome di Wakem veniva pronunziato alla presenza del marito. A poco Maggie si ricompose abbastanza per poter alzare lo sguardo. I suoi occhi incontrarono quelli di Tom, ma egli girò subito la testa e quella sera ella si coricò nel dubbio che la propria confusione avesse fatto nascere in lui qualche sospetto. Forse no. Forse egli pensava soltanto che ella si fosse spaventata a sentire la zia che parlava di Wakem di fronte a suo padre. Questa era l'interpretazione che aveva data alla mamma. Per il babbo Wakem era come una malattia deformante, di cui era obbligato a portare in sé la consapevolezza, ma che altri ne conoscesse l'esistenza lo esasperava. Orbene, da parte di lei, nessun eccesso di sensibilità verso il padre poteva riuscire sorprendente, pensava Maggie. Ma Tom era troppo lucido per rimanersene soddisfatto di una simile interpretazione. Aveva veduto abbastanza chiaro che nell'eccessiva confusione di Maggie c'era qualcosa di diverso dall'inquietudine per il babbo. Tentando di riandare tutti i particolari che potevano dar corpo ai suoi sospetti, si ricordò di aver udito poco tempo prima che la mamma rimproverava Maggie di passeggiare per i fondi rossi quando il terreno era umido e di tornarsene a casa con le scarpe inzaccherate di fango rosso. Ma siccome serbava ancora tutta la sua vecchia ripugnanza per la deformità di Philip, Tom rifuggiva dall'attribuire alla sorella la probabilità di sentire qualcosa di più che un amichevole interesse per una così disgraziata eccezione alla comune regola dei mortali. Di natura Tom aveva una specie di superstiziosa ripugnanza per l'eccezionale. Un amore per un uomo deforme sarebbe stato odioso in qualunque donna, in una sorella poi intollerabile. Che se aveva spinto avanti una relazione di qualunque genere con Philip, bisognava porvi termine immediatamente. Ella stava trasgredendo ai più vivi sentimenti del babbo e agli ordini espressi del fratello, oltre a compromettersi con segreti convegni. Il mattino seguente egli lasciò la casa con quello stato d'animo teso che trasforma in significative coincidenze il più ordinario corso delle cose. Quel pomeriggio, verso le 3:30, Tom stava sul molo e parlava con Bob Jakin della probabilità che l'ottimo bastimento Adelaide arrivasse tra un giorno o due, con risultati della più alta importanza per entrambi. Disse Bob incidentalmente mentre guardava verso i campi sull'altra riva del fiume. Ecco là quel giovane gobbetto di Wakeham. Riconosco lui o le sue spalle a qualunque distanza. Lo vedo sempre su quella riva di là. Un subitaneo pensiero parve folgorare attraverso la mente di Tom. Devo andare, Bob, disse. Ho qualcosa da fare. E si precipitò verso il magazzino dove lasciò detto che qualcuno tenesse il suo posto. Era richiamato a casa da affari urgenti. Il passo più svelto e la strada più breve lo condussero al cancello ed egli stava fermandosi per aprirlo, senza precipitazione, in modo di poter entrare in casa con l'apparenza della più perfetta calma, quando Maggie uscì dalla porta di faccia col cappellino e lo scialle. La sua congettura era verificata ed egli attese la sorella al cancello. Questa, al vederlo, sobbalzò violentemente. Tom, com'è che sei venuto a casa? C'è qualche cosa di nuovo? Maggie parlava con voce bassa e tremante. Sono venuto per passeggiare con te nei fondi rossi e incontrare Philip Wakeham, disse Tom, e la ruga diritta della sua fronte, divenuta gli abituale, si faceva più profonda mentre gli parlava. Maggie rimase lì, smarrita, pallida e fredda. Dunque, in un modo o nell'altro, Tom sapeva tutto. Finalmente disse: Non ci vado. E si voltò. Sì che ci andrai. Ma prima voglio parlarti. Dov'è il babbo? Fuori, a cavallo. E la mamma? Nel pollaio, credo. Allora posso venire dentro senza che mi veda. Entrarono insieme e Tom, aprendo il salotto, disse a Maggie: Vieni qui. Ella obbedì e Tom richiuse la porta dietro di lei. Ora, Maggie, dimmi subito tutto quello che è successo tra te e Philip Wakeham. Il babbo ne sa qualcosa, disse Maggie tremando ancora. No, disse Tom sdegnato, ma lo saprà se tu tenti ancora di usare degli inganni con me. Non ho nessuna intenzione di usare degli inganni, disse Maggie arrossendo di risentimento all'udire quella parola applicata alla sua condotta. Dimmi tutta la verità allora. Forse la sai già. Non ti preoccupare se la so o non la so. Dimmi esattamente ciò che è successo, o mio padre saprà ogni cosa. Parlerò per amore del babbo, allora. Sì, ti sta proprio bene di fare delle professioni d'affetto verso tuo padre quando ne hai offesi i sentimenti più vivi. Già, tu non commetti mai degli errori, Tom, disse Maggie sarcasticamente. Di proposito, no, rispose Tom con orgogliosa sincerità, ma non ho altro da dirti che questo. Raccontami ciò che è successo tra te e Philip Wakeham. Quando è che l'hai incontrato la prima volta ai fondi rossi? Un anno fa, disse Maggie tranquillamente. La severità di Tom provocava in lei un certo fondo di sfida e teneva in sospeso il suo senso di colpa. Non hai più bisogno di farmi altre domande. Per un anno siamo vissuti da amici, ci siamo spesso incontrati e abbiamo passeggiato insieme, mi hai imprestato dei libri. È tutto? Disse Tom guardandola fissa con la fronte corrugata. Maggie tacque un momento, poi, decisa di farla finita con quelle accuse di falsità che Tom si arrogava di rivolgerle, disse orgogliosamente: No, non precisamente tutto. Sabato egli mi ha detto che mi amava. Prima d'allora io non ci avevo mai pensato, l'avevo solo considerato come un vecchio amico. E tu? L'hai incoraggiato? Disse Tom con un'espressione di disgusto. Gli ho detto che anche io lo amavo. Tom rimase in silenzio per qualche istante con gli occhi a terra, accigliato e le mani in tasca. Finalmente alzò lo sguardo e disse con freddezza: E allora, Maggie, non ti rimangono che due vie. O mi giuri solennemente, con la mano sulla Bibbia del babbo, che non avrai più altri convegni con Philip Wakem, né gli dirai più parole in segreto. Oppure, se rifiuti, io dico tutto al babbo. E questo mese in cui, grazie alle mie fatiche, egli potrebbe tornare ad essere felice, ecco che tu gli dai la mazzata di sapere che ha una figlia disobbediente e bugiarda, la quale compromette il proprio onore incontrandosi di nascosto col figlio di un uomo che ha contribuito a rovinarlo. Scegli! Tom terminò con fredda decisione, andando a prendere la grossa Bibbia che portò presso la sorella ed aprì sull'occhiello dove c'era lo scritto.